con Claudio Bonivento, regista del film A mano disarmata al cinema da giovedì 6 giugno 2019. Claudio, ben trovato. Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a tutti, grazie. Lo raccontiamo brevemente a chi ci ascolta? Ti racconto soprattutto il motivo per il quale io credo si debba continuare a fare questi film. Se ne era un po' persa la voglia nell'ultimo periodo, però il desiderio di raccontare una storia come quella di Federica Angeli, come credo tanti sanno, è la giornalista di Ostia, che ha combattuto di sicuro, sconfitto, sconfiggere, non so se la Mafia ci sconfiggerà. Speriamo che sia certo adatto per la città di Ostia, un grande aiuto. Il suo gesto è stato veramente, lo riterrei unico nel suo genere, come è proprio raccontare un film di pentimento sempre così, perché poi è bello che ognuno dal film tragga quello che meglio crede. E poi mi farebbe molto, ma molto, molto piacere che un pubblico più giovane vada a vederlo. Soprattutto che lasci un po' un piccolo segno, come dico io, un cucchiaio in mezzo al mare, ma tante voci poi ne fanno sempre una. Certo che il momento ci si sente adesso parlare di queste cose, magistrati, che cose molto difficili, molto duro. È dura, però ripeto, proprio per la difficoltà di tutto, quanto è forte quello che ha fatto Federico. Come era nata l'idea di farne un film su questa vicenda? È stato un mio amico, il giornalista Paolo Butturini, lo incontrai un giorno e mi disse: ma tu devi assolutamente incontrare Federica Angeli, memore dei film che feci in passato. E mi disse: tu devi assolutamente incontrare Federica Angeli, assolutamente, perché lei è una storia, una cosa, insomma. E io chiamai una scrittrice che aveva già fatto delle cose come me, però non aveva ancora, diciamo così, una nuova scrittrice, che è Domitila Di Pietro. E andammo a questo incontro, perché avrei voluto nel caso una scrittrice donna, perché raccontando la storia della donna credo che sia l'opzione più adatta. E incontrammo Federica, la quale a un certo punto disse: sono onorata, disse, che lei aveva pensato a un film per me. E io adesso le dico: sono onorato di averlo fatto e spero di essere stato all'altezza. Vabbè, che all'altezza di quello che ha fatto lei, neanche se si fosse stato Spielberg o James Cameron, perché quello che ha fatto lei supera qualunque cosa, ripeto. Però è stato importante, io credo, questo primo incontro, perché ci siamo riconosciuti, ci siamo capiti e siamo arrivati a realizzare praticamente dopo. Federica Angeli, ecco, che contributo ha dato alla costruzione del film? Ripeto, con la scrittrice, con Domitila Di Pietro, ci sono incontrati, sono visti anche con Claudia e Gerini. È stata un po' una collaborazione solo professionale. È stata anche una collaborazione proprio di Claudia Gerini, che studiava Federica Angeli, che incontrava Domitila, che metteva giù. Intanto Federica Angeli stava scrivendo il libro. Voi mi insegnate che ogni film ha la sua storia, non si può applicare lo stesso cliché a tutti i film. Per esempio, il fatto che Claudio Gerini, e ancora la ringrazio, mi abbia aspettato 10 mesi, e che la incontrai a gennaio 2018, e abbiamo girato a novembre 2018. Perciò, con tutti gli impegni che può avere, i film che sta facendo, le cose che sta facendo, molto impegnati. Lei ha creduto, per esempio, subito in questa storia, immediatamente. Diciamo, mi ha aspettato. Proprio l'altro giorno mi diceva che era molto contento di aver fatto questo passo, perché lo ritiene uno dei film più importanti della sua carriera. Su cosa avete voluto centrarlo il film? Ovviamente evitando il più possibile, con il rispetto che ci sono per queste opere, che sono su Burla, romanzo criminale, stare lontano il più possibile da quello, perché sono state fatte benissimo, sia al cinema che in televisione. Andare a ricalcare la stessa impronta, sarebbe stato, secondo me, sbagliato. sbagliato, inutile, superfluo. Allora io ho spostato un po' il punto di vista della macchina da presa sul familiare di lei, sul personale, sull'intimo, sul rapporto con i figli, sul rapporto col marito, quello che accadeva fra le quattro mura di casa. Perché tante cose di un certo tipo di personaggi sono pubbliche, le sa, la gente le conosce. Ma dietro che cosa c'è? Da quelle parti che cosa c'è? Quindi ho fatto semplicemente un piccolo spostamento della macchina da presa, da dentro la porta, da fuori della porta, dentro la porta. Che cosa ti ha impressionato di questa vicenda giornalistica e giudiziaria? Che lei abbia mantenuto la sua residenza e viva ancora oggi lì a Ostia. Lei è stata recentemente da Piazza Gaspari, che è il centro, diciamo, dei clan, delle cose che spadroneggiavano. E adesso, chiaro, lei ha dato un grosso colpo, mi ha colpito questo. Prima la non reazione dei cittadini di Ostia, e poi mi ha colpito la reazione, e poi mi ha colpito questo fatto, ripeto, di rimanere lì a vivere. Lei potrebbe passarsi a vivere in un altro posto, no? Eppure stare lì non è neanche un atto di coraggio, qualcosa di più, capito? Io mi ricordo quando lei mi raccontava che la gente sputava per terra quando lei passava, andava a prendere il latte, capito? Per dirne una. Sì. Ha colpito la forza di questa. Poi non vogliamo fare il film al femminile per forza, perché c'erano 19 giornalisti, credo che siano due le donne sotto scorta. Federica Angelo, magistrato in campagna, però sono 19 persone, siamo 60 milioni, capisci? Quindi mi sembra che sia tutto molto unico più che raro, capisci? In quante sale sarà? Io ho contato che a Roma saranno una ventina, sarà in 220 copie comunque in tutta Italia oggi. Bene. 220 copie solo a Roma, ho visto che erano 17-18 sale. E allora ricordiamo. Importante anche, tra l'altro. E allora ricordiamo l'uscita del film A mano disarmata al cinema da giovedì 6 giugno 2019. Un saluto e un ringraziamento al regista Claudio Bonivento. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Ringrazio voi e crepi il lupo, come dicono a Roma, crepi il lupo e non la lupa. Vi ringrazio per l'attenzione. Come dico sempre io, se vi è piaciuto il film, parlatene. E se non mi è piaciuto, perché i film possono piacere o non piacere, come diceva un grande scrittore, Cesare Pavese, non fate pettegolezzi.